Fuga del Gatto, Radio Wombat. Bentornati e bentornate. Terza puntata estiva di questo ciclo che, come vi abbiamo già raccontato nelle due precedenti, è un ciclo che punta a farvi ascoltare un po' di buona musica in santa pace, senza grosse parole, senza grossi preamboli e grandi spiegazioni, perché a volte in effetti la musica si spiega piuttosto da sola, anzi io mi esagererei, direi sempre, però sì, insomma, però, alla radio soprattutto nella musica classica aiuta avere una guida, sì, perché ovviamente due non... cosette ve le diciamo, però insomma ora ve ne diciamo meno perché appunto vogliamo lasciarvi un po' liberi di ascoltare con tranquillità un intero concerto. Ogni domenica quindi una piccola introduzione e a seguire un concerto, in particolare concerti di solisti che dialogano con un'orchestra, quindi concerti per strumento singolo e orchestra. Nelle prime due puntate abbiamo parlato e vi abbiamo fatto ascoltare di il pianoforte che dialogava con l'orchestra nel caso di Mozart e nel caso di Chopin in particolare. Adesso invece andiamo avanti, ci muoviamo un po' da quella situazione lì, da quel milieu, e arriviamo all'altro strumento. Un po' ne avevamo già parlato all'inizio di questo ciclo, andiamo a un altro strumento principe di questo tipo di concerti, di questo tipo di composizioni, ovvero il violino. E lo raccontiamo attraverso tre concerti in particolare, uno a volta, uno per domenica, e partiamo con Mendelssohn. Concerto piuttosto famoso questo, sì. Forse a dispetto degli altri due che forse erano un pochino, beh, quello di Mozart abbastanza, insomma. Però insomma... Beh, questo di Mendelssohn. Questo sì, proprio straconosciuto, probabilmente quando lo ascoltate... lo riconoscerete. Probabile. Sì, perché il concerto per violino e orchestra opera 64, giusto? In mi minore. In mi minore. Quindi concerto in mi minore di Felix Mendelssohn Bartholdy, che... Beh, non abbiamo mai fatto una puntata monotematica su Mendelssohn, però abbiamo ascoltato molte volte Il sogno della notte di mezz'estate, abbiamo ascoltato tantissimi lavori di Mendelssohn, perché insomma è uno degli autori più importanti, più noti sicuramente della prima metà dell'Ottocento. Questo concerto venne commissionato all'autore da un violinista, dal violinista Ferdinand David, che ne fu il primo esecutore nel 1845. Questo è un altro caso ancora che in effetti finora non avevamo mai esplorato, di proprio un esecutore che richiede. C'era stato quando abbiamo fatto la puntata sull'oboe, c'erano stati degli esempi. È vero. Però erano più gli autori che scrivevano per un musicista. Sì, anche nel caso dei cantanti c'è stato spesso, ma in questo caso è un po' diverso. La richiesta, perché... sì. Che questo violinista chiedesse proprio. E infatti ne fu lui poi il primo esecutore nel 1845. Leggevo però, famosa divenne una successiva esecuzione nel 1847, un mese prima che il compositore morisse, perché ha avuto vita molto breve. Purtroppo Mendelssohn Bartholdy, perché dal 1809 è morto nel 1847, quindi insomma veramente giovane. E, un mese prima che il compositore si spegnesse, diretta dal compositore stesso, quindi con al violino questo ragazzo, questo enfant prodige che aveva riportato alla luce, grazie proprio a Mendelssohn, il concerto per violino e orchestra di Beethoven, Joachim. Leggo. Quindi l'unicità di questo concerto è innanzitutto nell'inizio. Il tema del primo movimento, allegro molto appassionato, è affidato al solista, invece che come da tradizione l'introduzione di solito è l'esposizione del tema da parte dell'orchestra, solitamente in questa forma di violino e orchestra. Qui invece comincia appunto il solista e definisce appunto questo primo movimento, allegro molto appassionato, definito tra i primi, se non il primo concerto romantico. Il concerto fa pensare all'idea di bellezza del romanticismo, cioè esprime l'idea che il romanticismo solitamente incarna della bellezza. In particolare, qui leggevo in questo articolo, l'ho trovato, il concerto fa pensare all'idea di bellezza del romanticismo, in particolare potrebbe richiamare alla mente, loro citano, uno dei poeti cardine del romanticismo inglese, Keats, citando appunto: la bellezza è tutto ciò che conta per un artista, perché l'arte e la bellezza hanno il potere dell'immortalità. Ah, e citando Keats, loro appunto sostengono appunto che nell'Ode all'Urna Greca Keats descrive il concetto di bellezza ed è la sola bellezza che nutre lo spirito romantico e l'arte stessa. Vabbè, sì, certo, come dire, ovviamente è calzante. Sì, il concetto che a loro volta riprendono il classicismo, insomma. Sì, ecco, però il romanticismo sicuramente fa evolvere questo, e sia nell'arte che nella pittura, che nella musica, sappiamo essere legatissime, soprattutto in Mendelssohn, che è uno che appunto ha musicato poi, no? Proprio momenti della storia della letteratura, della storia dell'arte, cioè Mendelssohn c'ha proprio dei riferimenti diretti, quindi in lui sicuramente questo è particolarmente calzante. Leggevo appunto, così accade anche nel concerto di Mendelssohn, uno stravagante spirito romantico, privo di regole e attirato solo da ciò che è bello e da ciò che lo affascina, si fa strada e cerca di emergere nella forma e nel rigore che tutto il concerto mantiene. Come un osservatore in un quadro che è chiuso appunto nella stessa immutabile cornice, riesce a perdersi, a percepire l'infinito. Così nel concerto il solista procede vagando, incerto, perdendosi poi in un mare di note, rallentando ad osservare il suo stesso spirito romantico e riflessivo nel secondo movimento, che è un andante, ed infine accelera nel terzo movimento, allegretto ma non troppo, allegro molto vivace, in una corsa mossa da un desiderio di libertà, un desiderio di uscire da quel rigore, da quegli schemi che la tipica bellezza, quella oggettiva dell'urna, un po' dell'urna di Keats, appunto, prefigge. Quindi qui la fanno un po' poetica, però fondamentalmente è vero che lo spirito romantico di Mendelssohn fa sempre un po' fatica a rimanere nella, no, nella struttura che la musica classica aveva avuto fino a quel momento, no? Il rigore un po' della forma che aveva avuto nel classicismo, che forse Mozart per primo riesce a rompere, pur restando sempre nella forma, ma quello era il genio mozartiano, che riusciva a rimanere in equilibrio tra il rigore della forma strutturata della musica classica e, no, l'ardore. Lo spirito romantico rompe completamente, no? E veramente rifugge anche un po' questo, e quindi poi quando deve stare dentro un po' a delle strutture appunto un po' ferme, come il dialogo tra lo strumento e l'orchestra, che per forza è, no? Che è botta e risposta, perché appunto sono due entità che si chiamano e si rispondono, però appunto lo spirito romantico che in Mendelssohn trova davvero un po' il suo apice, fa fatica un po' a rimanere e come un'onda travolge un po', no? E poi alla fine così si libera. E quindi forse questa è, no, la cosa più interessante da notare, quella più particolare, ed è tipicamente mendelssohniana anche in questa forma appunto del solo e orchestra. Sì, tra l'altro siamo appunto nel 45, quando 47, era? Che 45 richiesto, e poi sì, l'esecuzione più nota del 47, quindi sì, comunque, esatto. 1845. Quindi insomma sì, siamo a un romanticismo già in qualche modo formato, già abbondantemente definito, e poi questo mi veniva in mente mentre parlavi, questo andamento, questo errare, questo fa venire in mente vari altri autori che insomma, che poi hanno fatto di questa sorta di ricerca continua un po' la loro cifra stilistica. E qui in realtà sì, è vero che si sente questo rigore, si sente anche la sua voglia di uscirne, però io veramente non riesco a uscire fuori dal fatto che questo tipo di sonorità ormai, insomma, le associo a tutto quello che, cioè, già sentito milioni di volte, e un rigore che per me è diventato quello, il rigore. E quindi alla luce del 2019, purtroppo, certo, effettivamente capisco molto. Bisogna sempre contestualizzare. Esatto, cioè, dal punto di vista storico lo capisco molto, adesso attualmente purtroppo lo guardiamo con un altro tipo di sensibilità, probabilmente. Io trovo molto fortuna. Più, per esempio, meno... Amo molto più Mendelssohn di Chopin, per esempio. Cioè, se chiedi a me, io sceglierò sempre Mendelssohn su Chopin. Dipende. Tanto, comunque sì, questo sì. È bello, questo concerto qui mi piace molto. Ma anche per me, io Il sogno della notte di mezz'estate, cioè per me, ecco, alla mia sensibilità, per esempio, cioè, se ti proprio devo, cioè, se mi chiedi scegli, ovviamente sono due cose diverse, però davvero Mendelssohn è più vicino al mio gusto, per esempio, di così del mio, però è una cosa mia, cioè, personale, credo che sì poi tutti Mozart, perché per esempio Mozart è il primo, però per me è il più moderno, cioè io sento Mozart molto più contemporaneo, che Mozart è riuscito a essere, ma quello è il genio, quello che va oltre la storia, secondo me. Certo, no, è come, cioè ci sono delle cose di Mozart, sono più, no, senza che, tempo, che riescono a essere, no, che scavalcano, sono, sembrano più indietro quelle dopo di lui. Esatto, invece questo qua per esempio secondo me è molto legato a... al periodo. Sì, tutti romantici, però sono molto legati. Sì, Beethoven, sì. Ma mi fa per esempio un effetto proprio di, no? Ecco l'effetto lì. Molto, però è una cosa un po', secondo me, personale, ecco, no, un vabbè, po', certo, un po' di gusto, certo. E poi tutto va contestualizzato e visto con gli occhi, ovviamente, cioè non si può, no. Pochissimi sono riusciti a estrarre il proprio periodo e a fare cose che poi sarebbero tornate 200 anni dopo, capite? Sono i geni, ma di quelli, secondo me, cioè, ecco, boh, ce n'è veramente, sono rari, appunto, Leonardo, Mozart, boh, cioè, nel senso, il resto è pazzesco, però è comunque legato al proprio periodo, al proprio sentire. Certamente. Forse dopo riescono un po', no? Forse, cioè, forse quelli più vicini al Novecento riescono un po' a... Ma perché sentono già... Un cambiare anche, sì, della sensibilità, anche, cioè una trasformazione in corso. Sì. Che perlomeno sta per arrivare. O quelli molto prima, paradossalmente quelli barocco, cioè forse c'è qualcosa nel barocco che è talmente senza tempo che va... Sì, è vero. Però sono rare, cioè sono... come dire. Poi bisogna avere anche degli strumenti, non musicali, no, certo, ma conoscitivi, per capire, è normale che un ascolto così, tutto questo che si dice, forse può apparire anche troppo, no? È normale. No, vabbè, credo, certo. Insomma. E quindi, insomma, ognuno sceglierà quello che gli piace di più. È con anche il bello occhi, della musica classica, infatti, con queste orecchie, così come nella storia dell'arte, si sceglie sempre poi quello che si sente più vicino, che ci somiglia, che ci piace di più, ma meno male, viva, ma insomma, infatti, che non si debba per forza farsi piacere quello che ci viene detto, insomma, meno male, viva. Bene, e quindi vi lasciamo con l'ascolto di questo concerto per violino e orchestra di Mendelssohn, concerto opera 64 in mi minore, abbiamo detto tre movimenti sono, sì, non mi ricordo già mi più. Sembra di sì, sì. Tre movimenti, quindi insomma, non l'abbiamo mai detto, ma si sta parlando sempre di concerti della durata circa di mezz'ora. Okay, quindi sì, più o meno tenetevi pronti, quella è la durata più o meno con cui vi lasceremo. E vi diamo appuntamento invece a domenica prossima, sempre con un'altra puntata della Fuga del Gatto in versione estiva. Ciao ciao! Ciao! Thank you. Thank you. Thank you.